Pensate che nel vocabolario greco una nave che affondava si diceva è stata battezzata, perché più battezzata di così, ecco, è affogata, è stata battezzata nell'acqua. Allora quando il Gesù di Matteo dice andate in tutto il mondo a battezzare, vuol dire immergete l'umanità nell'amore di Dio. E torniamo a quel tema di stamattina, essenziale, l'unico, quello delle beatitudini, che poi Gesù ha ridotto ancora, perché vi diceva, ha detto sono troppe, chissà se le ricordano. Ecco, allora ha detto vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. E nuovo non significa, come solitamente si pensa, un undicesimo comandamento o un 101 comandamento da aggiungere agli altri precedenti, perché se voleva intendere quello avrebbe usato un aggettivo, neos, che conosciamo tutti per dire neo nuovo, e invece non ha usato quell'aggettivo lì, ha usato un altro aggettivo greco che significa kainos, che significa di qualità talmente superiore a tutte le altre che non ne fate più niente degli altri, quello sostituisce tutto. Un conto è un vestito nuovo alla neos, perché ne avete 9, ne aggiungete uno, ne avete 10, l'ultimo è nuovo o nuovissimo. E un conto è il nuovo nel secondo significato, dice, di una qualità tale che tutti gli altri non hanno più senso. Allora, vi do un comandamento nuovo che li sostituisce tutti. Dimenticate i 10 comandamenti, dimenticate anche le 8 beatitudini, ricordatevi di questo comandamento. Ecco, che poi dice Gesù comandamento, l'unica cosa che non si può comandare è l'amore, eppure Gesù lo mette sul piano del comandamento per dire voi avete in testa i comandamenti, se io non uso questa parola non capite niente. Allora vi dico che questo è il comandamento veramente che dovete tenere, amatevi gli uni gli altri, non come vi amate fra di voi, perché quella è Mosè, che era il dottore della legge, che riepilogava tutta la legge, ama Dio come il prossimo tuo come te stesso. Gesù dice no, come io ho amato voi, è molto diverso ed è molto più impegnativo, dice qui c'è tutto. E allora capite che questa è l'essenza, immergere l'umanità nell'amore di Dio, quell'amore di Dio che si è manifestato in Cristo, immergendoli come nell'amore di Cristo, passando lo spirito stesso di Gesù, e cioè il modo con cui Gesù ha agito, il modo con cui Gesù si è manifestato al mondo. Allora questo è l'annuncio dell'Evangelo, questo è da annunciare a tutto il mondo, questo è il Vangelo primo, il battesimo primo da battezzare. Ecco, allora, ecco perché qui diceva il battesimo consiste nell'immergere chi vuol diventare cristiano nell'acqua come se lo si volesse annegare per farlo risorgere a vita nuova. Simbolizza la morte e la nuova nascita, perché l'acqua è segno di vita, ma se arriva l'alluvione che vi affoga diventa segno di morte, avete il diluvio universale, segna l'ingresso in una comunità. Ecco perché tutte le comunità hanno dei riti di iniziazione. Presso i cattolici generalmente non si immerge più nell'acqua. C'era anticamente il battesimo che si chiamava di immersione, gli antichi battisteri che hanno la vasca, eccetera, no? Si scende, come fanno ancora i testimoni tante sette anche oggi, come si fa al Giordano, chi è stato al Giordano, Israele ha destinato posticino molto bello, molto ben preparato, potete discendere nel Giordano vicino a dove il Giordano esce dal lago di Genezaret, dove spesso vanno vari gruppi, specialmente neocatecumenali o protestanti a farsi battezzare, o cattolici a rinnovare i voti battesimali. Presso i cattolici generalmente non si immerge più nell'acqua, anche se qualche comunità lo fa, ma questa viene versata sulla fronte del battezzato. Non serve un certo simbolismo, però bisogna farlo anche spiegarlo, bisogna farlo fatta per esempio una bella catechesi sul significato simbolico dell'acqua battesimale, sarebbe una cosa buona per chi deve ricevere da adulto, supponiamo, il battesimo. Adesso lo ricevono in gran parte da bambini, ma ci sono degli adulti. Il Ragno San Lorenzo, la notte di Pasqua, hanno battezzato, cresimato, ricevuto la comunione, tre sacramenti in una volta, via, ecco, come facevano alle origini per uno che si è convertito, guarda caso, dall'Islam, visto che i cattolici si convertono all'Islam, in qualche islamico si converta ai cattolici, facciamo ecco, un po' di... Ecco, allora in che cosa consiste il battesimo? Seconda domanda, il battesimo presso i cristiani è differente dal battesimo praticato nelle altre religioni? Si trova un battesimo in altre religioni, ma il battesimo cristiano aggiunge, secondo i credenti cristiani, al simbolismo abituale del rito, morte e vita, oppure purificazione, un legame preciso con una persona, con Gesù. La comunità cristiana ha dato al battesimo questo significato di essere un segno che produce, no? Misteriosamente, per grazia di Dio, ecco perché il vecchio catechismo parlava di segno efficace che produce quello che significa il legame a Cristo, il legame a Cristo. Ci unisce a Lui, ci immerge nella sua morte e risurrezione, ci fa entrare nella Chiesa. Il battezzato diventa cioè discepolo di Gesù e membro della comunità cristiana. Vedete che fino adesso non si è parlato di cancellazione di nessun peccato originale. Questo linguaggio è quasi scomparso dalla circolazione. Si insiste su questo aspetto positivo, senza più creare l'idea che debba essere cancellata chissà quale colpa, che non c'è. Terzo, il battesimo è lo stesso in tutte le religioni cristiane. Le principali religioni cristiane, cattolica, ortodossa, protestante, riconoscono lo stesso battesimo. Questo sottolinea il fatto che i cristiani di queste chiese si riconoscono fratelli e sorelle nella loro appartenenza a Cristo. Beh, molto bello pensare che cristiani, ortodossi e protestanti danno al battesimo lo stesso significato, lo stesso valore. È un ecumenismo non fatto di parole, ma legato a un gesto sacramentale, legato alla grazia di Cristo. Che cosa vuol dire il battesimo ci unisce alla morte e alla risurrezione di Gesù? Mistero pasquale, sentite dire, no? Ecco perché si amministra nella notte, si amministrava nella notte pasquale. Vuol dire che il battezzato dovrà camminare sulla strada aperta da Gesù, perché unirsi alla morte e alla risurrezione di Gesù vuol dire in qualche modo mettersi sulle tracce di Gesù, no? Battere la sua strada, camminare sulla strada aperta da Gesù, scegliere la via proposta da Gesù, affrontare se necessario la sofferenza e la morte per essergli fedele, la sofferenza e la morte in questo senso come segno di fedeltà, come segno di amore portato avanti fino alla fine, affrontando se necessario la sofferenza e la morte. Quando Gesù dice: se qualcuno vuol venire dietro di me, prenda la sua croce e mi segua, ecco, però stiamo attenti che non significa che bisogna che ci carichiamo a tutti i costi di chissà quale croce trasversale o completa come l'ha immaginata la tradizione. Molto di più, prendere la croce era la pena più infamante che ci poteva essere a quel tempo, perché era la pena riservata agli schiavi, era la pena riservata alla fetta della società. Allora Gesù è come se dicesse: chi vuol venire dietro di me, cioè chi vuol essere mio discepolo, deve accettare, la croce è questa, deve accettare di essere eventualmente emarginato, di essere non capito, di essere messo a lato, perché magari troverà ostacoli, magari non verranno condivise le sue idee, il suo comportamento, eccetera. È molto, questo può prendere tutta la vita, mentre magari la croce può durare qualche mezza giornata, chi lo sa, e basta. Che cosa vuol dire? Ecco, la sequela di Cristo. Poi qui c'è la domanda, che cosa vuol dire il battesimo ci fa membri della Chiesa? Vuol dire che con il battesimo siamo accolti nella Chiesa. Evidentemente io penso che oggi tutti, più sanno tutti, sanno che la Chiesa non è la Chiesa fatta di pietra, di mattoni, di marmi, rivestiti d'oro o di muffa, a seconda dei casi. Ecco, no, è una costruzione materiale. La Chiesa è l'ecclesia, ecclesia in greco, sapete da cui deriva Chiesa, Ecclesia, dei francesi, no? E la parola che traduce una parola ebraica, è la parola che l'Esodo usa per indicare la convocazione degli ebrei durante l'Esodo ai piedi del Sinai, per la famosa assemblea là dei comandamenti, per la famosa prima alleanza. Ecco, là usa il vocabolario ebraico, usa la parola Kaal, che i 70 hanno tradotto in greco con ecclesia, da cui ecclesia, termine latino, e chiesa italiana. Kaal significa radunare, chiamare a raccolta, tant'è che c'è una rivista che forse qualcuno conosce, messo, che è l'organo di una associazione, che è intitolata Kol. Kol deriva da Kaal, perché Kol significa voce. Se trovate una rivistina col titolo Kol, è come se ci fosse scritto voce. Ecco, allora Kaal è l'assemblea radunata a voce, perché gridavano a voce la convocazione, ecco, convocata, adunata, per ricevere il dono della legge, il dono dei comandamenti, e quindi trasportate il significato di tutto questo, dovremmo capire meglio il perché la domenica siamo convocati dalla voce delle campane, dove ancora riescono a suonarle senza che la gente si lamenti troppo di essere disturbata. Era una bella cosa, ma poi non sono necessarie le campane per farci, per radunarci. Nel battesimo siamo accolti nella Chiesa, il battezzato diventa membro della comunità. Per capire membro della comunità bisogna pensare alle nostre membra, bisogna pensare, andarsi a leggere tutto quello che Paolo dice sul corpo di Cristo, sul corpo mistico di Cristo, sui carismi, cioè, il discorso della catechesi si allarga a dismisura, ci fa continuare l'opera di Gesù, no, ci fa nascere, riceve il battesimo. Col battesimo il battezzato diventa membro della comunità, riceve da essa e a sua volta dona. Attenzione a non ricevere soltanto. Si sente spesso dire la Chiesa nostra madre, ma l'Adriana Zarri, che qualcuno di voi ricorderà ancora quando era battagliera sul serio, adesso si sente di meno, una donna, una di quelle che hanno aperto tante strade, ecco. E benemerita secondo me per tanti aspetti, dice ma la Chiesa è nostra madre, la Chiesa è anche nostra figlia, la Chiesa ci genera, a nostra volta generiamo la Chiesa noi, perché se non ci fossimo noi dov'è la Chiesa? Se ci fosse la testa del Papa che si affaccia là, mettete pure tre volte al giorno dai sacri palazzi, ma sotto non c'è mai nessuno, non ci sarebbe la Chiesa. Ci sarebbe la testa del Papa sospesa là nel vuoto. La Chiesa è che ci sia lui e che ci siano tutti gli altri. Ecco, allora, la Chiesa nostra madre e la Chiesa nostra figlia. La Chiesa ci genera e noi a nostra volta generiamo la comunità dei credenti. A sua volta dona, ecco. A suo modo e nella sua misura ne è responsabile. Tutta la comunità è responsabile della Chiesa. Siamo sinceri, noi abbiamo la Chiesa che vogliamo, ecco, perché se vogliamo i pastori così, abbiamo dei pastori così, se vogliamo il parroco così, abbiamo il parroco così, se abbiamo il Papa così è perché vogliamo il Papa così, seduto sul trono, distaccato da tutta l'immensa folla di San Pietro, con tutte le alabarde in mezzo, con la banda, della banda degli svizzeri e la banda italiana che suona, il, tutto quel che volete, i poveri che dovrebbero esserci, che dovrebbero essere per i primi là seduto al posto dei cardinali, non ne vedete uno, perché sono tutti esclusi. Noi abbiamo la Chiesa che vogliamo, perché noi ci prestiamo e la Chiesa la costruiamo così. Se sentissimo che la Chiesa è diversa o deve essere diversa, avremmo, genereremmo un'altra comunità, un'altra Chiesa. Ecco. Poi c'è posto anche per il cardinale, per me non c'è posto, perché è l'unica categoria di persone che non sono conosciute dal Vangelo, ma comunque vedete come sono ben vestiti, di porpora, di bisso, tutto quel che volete, ma lasciamoli pure. Abbiamo fatti principi, qui veniva un principe di Santa Romana Chiesa, Cardinal Siri, anche se quando veniva qui era un modesto giocatore di bocce, andava a giocare lui che era così contrario al centro-sinistra, che se l'è presa con Moro, non si sa se Moro sia venuto qui a consulto o che cosa. Ecco, era poi uno che giocava a bocce con dei socialisti sfigatati, intendiamoci, quindi anche questo è un bel segno, no? Principe di Sacra Romana Chiesa, così austero, così duro, così difficile, che poi all'atto pratico come uomo era finalmente anche lui un uomo come tutti, no? Mi sfogo un pochettino. Tutte quelle robe lì le cancelle. Stai tranquillo, te lo garantisco. Procediamo perché condividiamo. Suo modo, nella sua misura, ne è responsabile. Ho reso però, credo, l'idea del fatto che siamo, esagerando o non esagerando, che siamo responsabili, come in una famiglia d'altronde, no? Che cosa si può ancora dire del battesimo? Un'altra domanda. Che ci fa rinascere alla vita stessa di Dio? Ci fa rinascere alla vita stessa di Dio? Ci aiuta a lottare contro il male? Ecco. Vedete che rientra anche l'idea del male, del peccato, ma in tutt'altro modo che nella vecchia maniera di concepire il peccato originale o il battesimo. Ci fa continuare l'opera di Gesù, ci aiuta a lottare contro il male, ci rende coscienti di essere figli di Dio. Ne mancano, qui non dice ci fa diventare figli di Dio, perché forse lo siamo già, nel pensiero di Dio, nel cuore di Dio, nel progetto di Dio, ma ci rende coscienti di essere figli di Dio. Quando stamattina dicevo figli di Dio si diventa, cioè vuol dire si prende coscienza di che cosa significa essere figli di Dio o figli di un padre o di una madre. Perché si dice che il battesimo cancella il peccato originale? Cercano la signorina Monique. Vai, Monica, vai tranquilla, Ah, forse sono gli amici, Sergio e la signora, Portali dentro, va, che non disturbano se vogliono venire. Perché si dice che il battesimo cancella il peccato originale? Tutta l'umanità è segnata dal peccato, quello che dicevamo stamattina, quello che vuole dirci il cosiddetto dogma, no? Ogni uomo è fragile, diviso tra il bene e il male. Il battesimo non è che cancelli questo peccato come una macchia tolta una volta per sempre. Ecco, ma donandoci la vita di Cristo, ci innesta su Cristo, su Gesù, lievito nuovo, fermento di vita divina, grazie allo Spirito Santo. Un'altra bella immagine biblica. Ecco, è che il battesimo ci innesta come tralcia alla vite. Giovanni 15, vi ricordate? Gesù che dice, io sono la vite, voi i tralci. È un testo molto bello per me, perché poi continua, il padre mio che orgoso stin, il mio padre è agricoltore, e vignaiolo, il mio cognome, per quelli che si chiamano Giorgio. Molto bello pensare che Dio è un Georgos, è un contadino, è un agricoltore di questa vigna, Gesù, e noi tralci innestati su di Lui. Vedete che c'è una positività, c'è un'aria di speranza, di vita, che non è si tratta più di vedere il peccato che rende tutto cupo, che rende tutto, che vi presenta un Dio minaccioso lì, che se non vi fate battezzare e non vi purificate vi fulmina. Perché si dice che il battesimo è il sacramento della conversione? Perché il giorno del battesimo si sceglie di seguire Gesù, sia che lo riceviate da adulti, allora siete voi a decidere, sia che lo riceviate da bambini, allora decideranno i genitori, va bene, va bene per voi, e con la sensazione, con il dovere però un certo giorno, man mano che il bambino cresce, di spiegargli le cose come stanno. Dice, guarda che ti abbiamo fatto battezzare non perché ti volevamo costringere a tutti i costi ad essere credente cristiano, ma perché, come ti abbiamo dato gratuitamente la vita fisica, così intendavamo offrirti l'occasione di avere in dono la vita, ecco, l'innesto nella vita di Cristo. Adesso che cresci, che diventi maturo, devi fare delle scelte tu, allora devi capire un po' di catechesi, un po' di studio biblico, un po' di dialogo con qualcuno che ti può illuminare, di modo che tu possa fare delle scelte responsabili a tua volta. Se i genitori, se i padrini e le madrine, se la Chiesa, i catechisti non fanno questo lavoro, è chiaro che viene a mancare tutta una. Ecco. Perché il giorno del. Ecco perché si dice che il battesimo è il sacramento della conversione, perché il giorno del battesimo si sceglie di seguire Gesù. È un ritorno, una conversione, l'inizio di una vita differente. Questo discorso, ripeto, vale soprattutto per chi riceveva e chi riceve il battesimo da adulto. Tutti i sacramenti chiedono di convertirsi, meglio direbbe, si direbbe forse, lasciarsi convertire, no? Di accettare il dono di un Dio che ci porta a sé, cioè di cambiare qualcosa nella propria vita, perché sia maggiormente conforme a quella di Cristo risorto. Il battesimo è il sacramento che ci apre alla conversione, che dovremmo proseguire fino alla nostra morte. Chi può amministrare il battesimo? Questo lo sapete. Perché si sceglie un padrino o una madrina per colui che riceve il battesimo? Per creare tra loro e il figlioccio dei legami particolari. Essi devono essere testimoni della fede nella comunità. E allora capite perché la Chiesa è un po' dura nel non accettare quelli che ufficialmente non sono allineati col diritto canonico. Questo non significa che non siano allineati col cuore di Dio, perché soltanto Dio conosce i drammi delle persone che si sono separate o che hanno delle difficoltà. Dovremmo stare molto attenti a giudicare, e forse anche la Chiesa è chiamata a rivedere questo suo comportamento, ecco, ma la Chiesa d'altronde non vuole anche la comunità dei credenti, non vuole anche lasciar passare tutto, vorrebbe fare una testimonianza quanto più possibile secondo il difetto. Poi non è in quel punto lì, il difetto secondo me è generale, il grande delitto, lasciatemi usare questa parolaccia troppo forte se volete, il grande delitto è di aver trasformato il Vangelo in legge. Questo ha prodotto e produce la morte invece che la vita. Aver trasformato le beatitudini in leggi, non si possono le beatitudini trasformare in legge. Precetto dell'amore, vi ho detto, sì, Gesù ha detto comandamento, in realtà è l'unica cosa che non si può comandare. L'amore si offre, l'amore è spontaneo, l'amore ti prende, ti porta via. Ecco, pensate quando vi siete innamorati, visto che siete quasi tutti sposati, no? Ecco, ma poi per fortuna ci si innamora anche tra non sposati, perché siamo tutti figli di Dio, allo stesso. Ecco, allora educazione. Essere, però comprendiamo anche, ecco, direi di non. Comprendiamo anche il dramma in cui si trova la Chiesa oggi, dopo aver istituzionalizzato il Vangelo, dopo aver trasformato l'elan, no? Lo slancio del Vangelo, le beatitudini del Vangelo in leggi, e come si fa? Non ne venite più fuori. Pensate oggi come farebbe la Chiesa se abolisse questo sistema, è tutto finito. L'organizzazione esterna, l'istituzione in quanto tale, e l'istituzione in quanto tale, vedrete che si sbriciolerà sempre di più. Ecco perché loro ben lo sanno, tengono duro, come hanno tenuto duro finché hanno potuto i sommi sacerdoti dell'Antico Testamento a costo di ammazzare Cristo. Il guaio è che, come l'hanno ammazzato loro, continuiamo ad ammazzarlo da 20 secoli, mi spiego. E un certo giorno questo impero, la Chiesa come impero, potrebbe crollare, come è crollato un impero che si pensava non crollasse mai, quello del comunismo, e come crollerà l'impero di Bush e tanti altri imperi, credetelo, in un momento, alle volte. Questo potrebbe attendere la Chiesa in un domani, di sfaldarsi come organizzazione. Guardate quante chiese vuote d'attorno a noi, guardate quante chiese in rovina. Andate in Oriente, le antiche basiliche che sono state il sogno della grandezza del cristianesimo delle origini, in Siria, in Libano, nell'Iraq, nell'Iran, in Turchia, in Grecia, non esiste più una, nell'Africa del Nord, l'Africa di San Cipriano, l'Africa di Agostino, non c'è più niente, solo rovine. Dobbiamo pensare a queste cose. Se questa è la Chiesa, potrebbe sbriciolarsi. Se invece la Chiesa è quella delle persone, è quella della fede, se il battesimo invece fa di noi non un'organizzazione visibile, ma la invisibile organizzazione dei santificati dall'amore di Dio, ma casca il mondo e nessuno vi può togliere la fede dal cuore. Mi pare questa è la Chiesa che dovrebbe preoccuparci maggiormente, non tanto quella delle grandi parate o dei grandi pellegrinaggi, secondo me. Perché si sceglie un padrino? È forte la responsabilità dei padrini, delle madrine, dei genitori, degli educatori. Ecco, devono aiutare i genitori nel compito di educazione cristiana. E se i genitori non adempissero per niente a questo compito, i padrini dovrebbero fare tutti loro. Allora converrebbe anche sinceramente. Io credo che si potrebbe aggiustare così. Onestamente dire: guarda, tuo padrino e tua madrina sono cristiani, ma hanno rotto il matrimonio, siamo divorziati perché le cose sono andate così, non farci caso, non accettaci come siamo, forse abbiamo sbagliato, forse questo, forse quell'altro, non potevamo essere perfetti, anche tu domani avrai i tuoi guai, avrai le tue difficoltà, ma noi ti vogliamo bene lo stesso e vogliamo dirti che l'ideale, ecco, proposto da Gesù è questo, nonostante che noi non siamo stati capaci a vivere. D'altronde anche noi preti, nella predica, non pensate che quando vi diciamo certe cose perché noi le facciamo, spesso facciamo tutto il contrario di quello che in silenzio, senza che ve ne accorgete troppo. Le cose lì dobbiamo cancellare. Era per farmi capire, ecco, per farmi capire. Perché sono sovente i padrini e i madrini gli interlocutori privilegiati nel periodo dell'adolescenza. Perché insegnate, no? Poi psicologhi stanno a dirci che nel periodo dell'adolescenza spesso i ragazzi, i figli si confidano più con terze persone che con gli stessi genitori, e avere a fianco un padrino, una madrina capace, preparata, può significare molto per l'educazione alla fede. L'ultima domanda che qui si propone e l'ultima risposta, poi chiudo. Dice: perché si dà generalmente il nome di un santo al battezzato? Adesso ci sono dei nomi strani che circolano in giro, ma altri invece riprendono volentieri nomi biblici, come già da anni, Daniele per esempio, ecco, un bel nome biblico, Maria, così, Raffaele, Sara, ecco. Davide. Come? Davide, moltissimi, sono tanti nomi biblici che vengono risuscitati. Perché? Ecco, i genitori cristiani danno ai loro figli nomi di santi che amano particolarmente. I figli crescendo impareranno a conoscerli, ma siete proprio sicuri che conoscano? Forse non li conoscono neanche i genitori. Ma perché il nonno si chiamava così? Perché il bisnonno? Ma è anche bello questo, no? Però bisognerebbe dargli ragione, senso. I santi di cui portano il nome possono essere per loro un ideale e un modello. Vedete che era tutto questo, tutto quello che questo catechismo, quanti anni fa, diceva sul battesimo. E allora è un aiuto per impostare. Chi fa il catechismo battesimale adesso può darci, io avrei concluso, può darci una conferma o meno se avviene su questa linea già in tutta. Anche se la maggior parte viene un vecchio battesimo. Del lingua, lasciatela perdere perché non abbiamo. Non abbiamo avuto tempo a fare l'aspetto. Ci siamo fermati soprattutto all'aspetto biblico un po' della questione e un po' all'aspetto teologico, questo qui ultimo, se volete, catechistico. Abbiamo trascurato completamente l'aspetto storico, ma avessimo tempo a percorrere a tutto l'itinerario storico attraverso le varie tappe in cui è passato il sacramento del battesimo, per esempio, o il cosiddetto dogma del peccato originale, ne scopriremo delle belle. Scopriremo per esempio che il grande Agostino, ossessionato dal sesso perché ne ha anche fatte troppe, poi si è convertito fin troppo, e allora dice se non c'è la cancellazione del peccato come colpa non ci può essere il paradiso, ne manco per i bambini appena nati, allora tutti all'inferno. Agostino li mandava nella sua santità tutti all'inferno, il bambino era costretto perché se ragionavano in quel modo. Poi Agostino ha dovuto combattere anche diverse eresie, quindi preso dalla polemica ha esasperato le cose nell'altro modo, e allora di lì è venuto fuori la necessità del battesimo ai bambini. Ma pensate che nei nostri trattati di morale c'erano i casi poi riservati agli ultimi anni, di quando eravamo già prossimi alla messa, che non scappavamo più dal seminario, e allora lì nella morale si facevano tutti i casi di come riuscire a battezzare i bambini persino nel seno materno, quando non riuscivano le donne a partorire o c'era il pericolo che nascessero morti, quindi a battezzarli ancora. Erano tutte cose tragiche per noi perché non sapevamo oltre il resto nemmeno che si nasceva in quel modo, quasi quasi. L'abbiamo imparato tutto di straforo, pensando di fare peccati mortali a tutto andare, perché imparavamo queste cose. Penso che anche le donne di un tempo, le nostre nonne, le nostre mamme, mi diceva una già, anzi a Carolina, racconta che un giorno ha chiesto a sua madre, ha detto, ma dimmi un po' sinceramente, che educazione sessuale hai avuto tu quando ti sei sposata? E la madre ha risposto, l'educazione sessuale, mia madre, tua nonna, mi ha detto, guarda che in quel sì sarà, è tutto compreso. La grande preparazione, educazione sessuale. Esatto, era saggio. Sintetica era. Era qua, quasi quasi così, ecco. Sì, è vero. Sì, ma difatti al concilio, dicevo di Agostino, lasciatemi finire. Agostino è stato così che ecco, poi questa crudezza non è stata accettata nei secoli dopo. E allora si arriva a Erasmo di Rotterdam, il famoso filosofo teologo di Parigi, che ha avuto la buona occasione di innamorarsi di Eloisa e di piantarle il casino che ha piantato, tanto per parlare come parlano i vostri figli o nipoti, ecco. E allora di lì ha detto, ma insomma, inventiamo almeno il limbo. Inventiamo almeno il limbo, non si possono mandare all'inferno, non si possono mandare in paradiso perché non c'è il battesimo, ma Dio non sarà così crudele, li manda in qualche posto, all'oscuro, al buio, e li tiene lì. Peggio, peggio del purgatorio, perché c'era già anche il purgatorio. Peggio del purgatorio, perché il purgatorio ci stavi qualche anno più, anno meno, poi andavi, invece il limbo per tutta l'eternità. Ma capita che cosa siamo arrivati? Terribile, terribile. E poi c'è stato Marcinkus anni prima che ha inventato il purgatorio. Poi finalmente queste cose sono andate. È il cammino faticoso della fede, non spaventiamoci più del necessario, prendiamo atto, constatiamo, ringraziamo che per certe cose siamo usciti e viviamo in un momento molto felice, molto bello, perché possiamo esprimere anche queste nostre cose. Io 50 anni fa non avrei avuto il coraggio di dire quello che dico stasera, quello che vi ho detto, ma oggi abbiamo il coraggio, nessuno, non ci sono le guardie svizzere lì ad arrestarci, probabilmente nessuno ci scomunica, anche se sentissero le nostre registrazioni, nessuno di voi si sente in colpa per quello che diciamo, anzi siamo contenti e felici di poter anche brutalmente dirci le cose come stanno, perché questo è motivo di crescita, motivo di confronto, è motivo di... C'è solo il pericolo che i vostri figli, trovandosi in un determinato versante, non avendo vissuto tutte, non avendo sudato per varcare il crinale, ecco, danno per scontato tutto quello che hanno senza capire il perché, il come le generazioni di prima sono arrivate a tanto e siano più scontenti loro oggi di quanto non lo eravamo noi magari prima, o perlomeno scontenti allo stesso punto senza accorgersi di tutto un cammino che è stato fatto, ecco. Allora bisognerebbe essere così bravi, ma chi lo è, a tenere presente, a contemperare tutte queste cose, a farle agire per il meglio. Ma io pensavo, e con questo penso che la Bibbia ci aiuta a passare un messaggio di fiducia, di speranza, di no? Tanto più, ecco, se riusciamo a liberarci dalle pastoie di una religione che ci presenta un Dio castigamatte, un Dio, ecco, che finisce di odiare. Siamo arrivati a pensare a un Dio più tristo di Hitler, perché avrebbe il forno crematorio eterno, che sarebbe l'inferno, il forno crematorio eterno, mentre Hitler li ha avuti per qualche anno. Noi abbiamo pensato che Dio, il Dio amore, che Gesù Cristo possa avere il forno crematorio per tutta l'eternità. Questo è un altro punto, come sapete, che oggi è fortemente in crisi, è collegato anche a tutta la faccenda dell'eredità, del peccato, della dottrina sul peccato. Ma copriamo troppi orizzonti, sarà meglio che ci fermiamo. Se qualcosa c'è da ancora da approfondire, abbiamo ancora quasi mezz'ora su questi temi. Sì. Ai bambini? Io non so adesso come facciano nella catechesi. Certamente se ne parlate, direi di non escludere i racconti biblici, perché i racconti biblici sono troppo belli, sono troppo fantasiosi, sono troppo immaginativi, sono troppo parabolici per essere dimenticati, sono troppo preziosi sotto questo aspetto, ma non dare l'idea di prenderli materialmente alla lettera. Dice, fate tutto il discorso che siete capaci a fare sul peccato, che più o meno abbiamo fatto a un certo livello, lo traducete a livello, mi dice, per farci capire questo, ecco, la Bibbia allora, che facevano il catechismo anche, ha gente, ha immaginato queste cose, ha immaginato la mela, e poi per la verità la mela, non ditelo perché non c'è, la mela c'è l'albero della conoscenza, del bene e del male, la mela è venuta fuori, lo sapete perché? Perché è venuta fuori la mela nel racconto del peccato originale, perché? Lo sapete? È venuta fuori perché mela in latino si dice malum, e peccato si dice malum, allora peccato è la mela, malum, malum, hai mangiato la mela, e si può usare, hanno immaginato quegli autori per farsi capire, hanno immaginato la disubbidienza, la disubbidienza a Dio, Dio che si creatore, tutta la natura, tanti fiori, tante, così per fate bello un po' a queste cose. Credo che, credo che si può far capire. Guarda, ma la signora stava dicendo, come mai quelli che non sono soldati in chiesa non possono fare battezzare? Chiunque può far battezzare il bambino. Se il parco le battezza, perché sono stati dei rifiuti. Ci sono stati dei rifiuti. Ma possono essere quelli che tanto se vogliono scusare, loro li faccio. Rifiuti il sacramento, chiedono un altro e mi sembra un po'. È di recentissimo una notizia sulla stampa di un sacerdote che ha rifiutato il battesimo. Fanno notizia, ecco. Però basta che cambi parrocchia e ti battesimi. Siamo lì. Ci sono dei. Sono queste assicurare che lo crescerà un po' che la conoscenza della fede cristiana. Io non invidio i catechisti che ti ascoltano, che ti hanno ascoltato, perché era molto più semplice insegnare il catechismo con l'immagine del paradiso terrestre. Bisogna prepararsi ed è certamente più impegnativo, infinitamente più bello, infinitamente più rispondente alla realtà, più vicino a Dio che noi. Credo che però era più facile alla nuova versione. Come no? Noi così lo presentiamo al sacramento del battesimo. Non lo so. I catechisti sono autorizzati a usare la propria fede e il proprio buon senso, poi dipende certo dalla sensibilità della singola persona, dipende dai parroci, dipende da. È chiaro che queste cose io mica le dico stasera la prima volta a voi, è da tanto tempo che lo diciamo, ed è chiaro che dopo averle dette espressamente, se si è interpellati su queste cose, c'è chi, preso da un senso di responsabilità giusto e forte, e che non si sente, che improvvisamente non si sente preparato, va dal parroco e gli dice: abbia pazienza, io non vengo più a fare il catechismo, non me la sento più, sospendo. Allora è certo, apriti cielo, parroco non ti inviterà mai più perché gli hai tolto un catechista, gli hai fatto perdere la fede, perché ti dicono subito quello, fai perdere la fede alla gente, non si rendono conto che magari con altre prospettive la gente vive meglio e scopre di essere figlio di Dio in un modo più intimo e più profondo, ecco. Ma è comprensibile, certo, e alle volte uno aggiunge, dice non per questo, dovete andare a dimettervi, è un impegno che bisogna prendere di approfondire, di istruirsi, ma da quale dottore noi andremmo per chiedere qualsiasi pillola se sapessimo che un dottore da 30 anni non si è più interessato a niente della sua arte, e invece per lo spirito tutto va. Per lo spirito non interessa chiedersi se quel prete è all'altezza della situazione oppure no, se è preparato, se vi trasmette il Vangelo o vi trasmette le rivelazioni di qualche santo. Ecco, no? Allora è qui il punto critico. Il cambiamento nostro è stato dato non dal nostro padre come allora, ma da un corso di religione di madre che abbiamo fatto. Allora c'era stato presentato battesimo come in realtà, certo. E difatti c'è stata una grossa discussione tra catechisti, una nuova versione, diciamo, e però potuto prendere il parroco e costringerlo a dire adesso ci chiarisci, perché com'è che a me sono detto una cosa e ne insegniamo diametralmente un'altra, che è solo il battesimo principale. Io che battesimo cancella il peccato originale, qual è il peccato originale? Cancella dei bambini che sono appena nati. E qual è il Dio? Io non voglio un Dio, non credo e non amo un Dio che mi marchia un neonato con un peccato che non ha commesso. Allora non potete presentare Dio in questo senso e questo sacramento in questo senso. Certo, allora quelli che non hanno ricevuto il battesimo sono bollati per tutta la vita. Allora, ma ci fu una bella discussione, il nostro parroco intelligentemente disse ma parla di me. Allora è così e così. E allora da allora, tu sai perché abbiamo, ma abbiamo sempre parlato. Sta seguendo i nuovi catechismi, avete la via aperta a questo. Sì. Ha detto anche che ci sono 15-17 anni, che arrivo per la comunità, non sa neanche la professore, non sa credo, non sa niente. Ma posso fare delle loro divinità per fondare le partite? Ma fanno socializzazioni, se si conoscono tra le catechismi, si vuole normale. Forse ma sarà già una sì, bisognerebbe caso per caso esaminare che tipo di catechese si fa. C'è un bambino di tipo di catechesi che li portano fino alla cresima. Noi certamente eravamo abituati alle formule, alle formulette, vi ricordate? Catechismo, chi è Dio, cominciava, chi è Dio, Dio e l'essere perfetto. Ecco. E saputo quello eravamo, sembrava di essere, aver fatto tutto, ma quello non significa ancora niente. Oggi anche nella